Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. And there's a ghost, ghost, ghost living in my head, and there's a ho, ho, ho burning in my bed. I'm young and wild, I'm young and wild. Oh. Su, su, sull'interno rispetto a Nagatomo, l'interno sinistro, Cutrone! Ieri ero in primavera e giocavo con i derby, così segnavo e risultavo così. Adesso risultare a San Siro davanti a questo pubblico magnifico, qualcosa di incredibile. Se pensiamo che con questa vittoria abbiamo risolto i problemi, sarei un folle a pensare questo, però ci dà fiducia, ci fa guardare avanti, ma forse sono l'unico, sono l'ultimo allenatore che allena in Serie A che sono forse il più scarso, perché ancora devo mangiare di pasta asciutta per migliorarmi. Anche quando gioco con mio figlio a calcetto voglio vincere, quello fa parte dei miei DNA. Adesso io sogno quello di stare con questa squadra, perché io amo il Milan e voglio restare, però i movimenti così sono determinati dalla cattiveria, dalla fame di far gol, perché io sono entrato e volevo vincere, quindi sono contento. Faccio allenatore, ho toccato parecchie volte il fondo. Ha incontrato pure Zamparini da giovane, però. Costantella, azione che non è da meno. Lo fi crede che ha fallito dopo 6 mesi. Pisa 2 anni senza presidente. Non mi sono fatto mancare nulla, però. E adesso il problema è che abbiamo tutto. Abbiamo una società che è puntuale su tutti gli impegni che deve mantenere. Milanello non manca nulla. Sta a me tirare fuori il massimo di questi giocatori. 14.07, 50 secondi rigorosamente in diretta anche oggi, quindi vi do subito i numeri 800 24 00 24 per chiamare e intervenire fino alle 15, oppure 349 238 6666 per i vostri sms e whatsapp. C'è Pierluigi Pardo, ciao Pier. Ciao. Saluto subito anche un amico di questa trasmissione che oggi si sarà svegliato bello, allegro, sereno e secondo me anche soddisfatto e orgoglioso del lavoro fatto con le giovanili del Milan, ovvero Filippo Galli. Ciao Filippo. Ciao a tutti. Allora, io lo devo dire onestamente, non avrei scommesso ieri un centesimo sulla vittoria del Milan, a differenza di Pierluigi Pardo, che ieri si era sbilanciato nel suo pronostico. Me l'ha fatto notare, ieri sera appena finita la partita stavo tornando da San Siro, è arrivato il suo whatsappino, ogni tanto le rare volte che ha ragione lui ovviamente mi scrive subito, no, però il Milan ha vinto meritatamente. E devo anche dire, Pier, non so se sei d'accordo, io ne ho visti milioni di derby, a me non è dispiaciuto per niente. Oggi ho letto critiche, derby povero tecnicamente, a me è piaciuto tanto il derby di ieri sera. È stato un buon derby, sentiamo Filippo, però è stato un buon derby per quello che è il momento e il valore tecnico delle due squadre. Ovviamente non è il classico, non è il Real Madrid Barcellona Messi contro Ronaldo, però è stata una buona partita. Sì, poi c'era anche un campo non semplicissimo, Filippo. Ma sì, diciamo che erano due squadre che venivano da un momento difficile, con tanta paura addosso. Io direi che ha vinto la squadra che ha avuto più coraggio alla fine, ha voluto più vincere questa partita. Quindi hanno messo in campo tutto quello che aveva, e diciamo che poi parte che ha fatto questo splendido gol, perché è stato un movimento bellissimo, non semplice da realizzare, perché alla fine credo che l'abbia colpita di controbalzo sta palla. Ecco, ripeto, la voglia di vincere in campo poi alla fine l'ha avuta più il Milan, ed è stato premiato. Insomma, spesso ci lamentiamo, no, che le nostre squadre non siano coraggiose. Il Milan ieri lo è stato, ovviamente cominciando la gara altrettanta tensione, paura dell'Inter, perché entrambe venivano da due momenti difficili, da risultati non positivi. Sì, l'avevamo un po' etichettato ieri come il derby della paura, e credo confermo. Poi dopo il traffico parleremo dell'Inter. C'è un amico che ha scritto subito: passiamo al prossimo argomento se dite che il Milan ha vinto con merito. Secondo me il Milan ha vinto con merito e l'Inter è in crisi, ma ripeto, ne parliamo dopo il traffico. Arriva anche Fabrizio Biasin. Oh, io volevo chiedere Pier a Filippo Galli se ci fa il ritratto di Patrick Cutrone. Secondo me da ieri, ma non solo da ieri, è impossibile immaginarselo dietro a Kalinic e André Silva nelle gerarchie d'attacco del Milan. Però questo poi è tema per Gattuso. Però un bel ritratto di Patrick Cutrone, Filippo. Patrick, vabbè, Patrick l'avete sentito anche insomma, dopo la partita, è un ragazzo davvero genuino che esprime quello che sente, quello che prova in maniera molto, molto semplice. È un ragazzo che è con noi dal 2007, quindi sono 10 anni, è un ragazzo che ha sempre dimostrato quello che ha detto lui, no? la fame di fare gol, la fame di imporsi, e quindi insomma il merito è tutto suo, è tutto di coloro che gli sono stati vicini, lo dice sempre anche lui, no? La famiglia in particolare è sempre stata molto, molto attenta, e poi tutti gli altri hanno cercato di aggiungere qualcosa o almeno nelle condizioni di poter esprimere questo suo talento. Ieri sera l'ha fatto in maniera straordinaria davanti al nostro pubblico in uno stadio quasi colmo, in un derby, no? Credo che insomma un ragazzo che si è cresciuto nel Milan, che tifi Milan, non possa desiderare una serata e un momento più bello di quello di ieri sera. Ecco, poi è un giocatore che ci mette tanta forza, tanta volontà, lotta su ogni palla, tecnicamente anche cresciuto e è cresciuto anche nei movimenti d'attacco, e quindi insomma oltre all'aggressività, determinazione, è sicuramente dal punto di vista tecnico cresciuto e insomma sta raccogliendo i frutti e sta dando una grossa mano al nostro Milan. Fa quello, Pier, che in questi mesi stanno faticando a fare Kalinic e André Silva. A proposito, sì, di gerarchia, io ieri parlavo della possibilità, non, in realtà non avevo nessuna certezza che il Milan vincesse la partita, pensavo facesse una buona partita, però il Milan ieri ha avuto veramente questa possibilità di togliersi di dosso i 90 minuti ed è una fortuna in qualche modo, buona parte dei problemi che ha avuto fino adesso. È ovvio che non andrà in Champions League attraverso il campionato, questo è assolutamente evidente, però da ieri la stagione del Milan può prendere una strada diversa. Perché prima di tutto perché c'è una semifinale di Coppa Italia dove il Milan arriva ovviamente non da favorita, perché la favorita ad oggi è comunque la Lazio, però comunque te la puoi giocare, e poi perché insomma è una di quelle partite che ti cambia molto negli umori. E per quanto riguarda Cutrone, è il miglior realizzatore del Milan di quest'anno con 9 gol e ieri sera solo, e ha fatto vedere grandi cose, insomma diciamo la verità, insomma, è fra i meno colpevoli, già prima di ieri sera era fra i meno colpevoli, o se vuoi fra i più positivi della stagione, quindi è un'ulteriore conferma. Penso anch'io che la partita di ieri gli darà delle possibilità, adesso non è che diventa titolare per volontà divina fino alla fine della stagione. Ma però poi ci sono anche logiche di mercato, Pier, che adesso non possiamo chiedere a Filippo, ma conosciamo tutti benissimo, se tu spendi 70 milioni per 2 attaccanti poi è difficile mettere in cima alle gerarchie quello che viene fuori dalla primavera. Ma Filippo, a chi assomiglia Cutrone? Perché c'è chi dice fai gol sul filo del fuorigioco, quindi assomiglia ad Inzaghi. Cutrone. Può fare l'esterno anche. Cutrone. Ha provato anche nelle giovanili a giocare da esterno d'attacco. È chiaro che lui lì davanti ha questo senso del gol straordinario e credo che possa dare il meglio lì. Dopodiché mister Gattuso, ovviamente, che lo vede ogni giorno, e vede anche gli altri ogni giorno, potrà fare le scelte migliori, però sicuramente quello che otterrà sempre da Patrick è la massima disponibilità, perché da questo punto di vista è un ragazzo incredibile, giocatore incredibile. Il Milan è fuori dalla crisi? Ha detto Gattuso no. Insomma, Rino ha il polso di tutto, no? Quindi è consapevole che una gara così importante vinta può dare una mano dal punto di vista della serenità, della tranquillità, del far credere un po' tutti di più rispetto al lavoro che si sta facendo, e quindi sicuramente su questo farà leva, però è anche realista, no? Diciamo, possiamo con tutto d'un tratto con un colpo di spugna aver risolto tutti i problemi. C'è un'altra partita difficile a Firenze, quindi si dovrà affrontarla sicuramente partendo da tutto ciò che di buono è stato mostrato in campo, è stato mostrato in campo ieri. Sì, leggo un paio di messaggi che sono arrivati. Uno, un amico che non si ferma, scrive: Milan piccolo, modesto, ma con un cuore da Champions, anche se non basterà per raggiungere il quarto posto. Credo anch'io che il treno del quarto posto sia oramai abbondantemente passato in questa stagione. Non a caso, insomma, Pier, senza girarci troppo intorno, sabato a Firenze sarà l'ennesima ultima spiaggia, perché poi il Milan si è condannato a questo in campionato. No, ma a un'eterna ultima spiaggia. Guarda, in campionato secondo me il Milan difficilmente, cioè l'obiettivo sano e sereno del Milan a questo punto, facendo un ragionamento razionale, visto che la Champions, sono d'accordissimo, non è raggiungibile, il quarto posto non è raggiungibile, è fare benino e arrivare in Europa League attraverso il campionato e poi giocarsi nelle coppe, a questo punto le occasioni importanti. Cioè il Milan la stagione la può cambiare vincendo la Coppa Italia, la può cambiare andando avanti molto in Europa League. È difficile che possa pensare di arrivare al quarto posto. Se vuoi gli diamo altre due o tre partite per poter pensare di ipotizzare una rimonta, che però secondo me è impossibile, perché in questo sono d'accordo con Gattuso, la crisi non è finita. La squadra che segna ancora poco, secondo me, è una squadra inferiore a quelle che stanno davanti in classifica. Però ieri sera mi ha colpito molto e in qualche modo è una conferma, perché io poi avevo commentato Milan-Atalanta e per quanto l'Atalanta abbia dominato dal punto di vista tattico il Milan comunque è squadra dal punto di vista della volontà, della voglia, e quindi questo, da questo punto di vista, Gattuso ce li ha dalla sua parte. Lo pensavo prima di ieri, poi dopo la partita di ieri sera lo penso doppiamente, perché ovviamente è una partita che ha detto queste cose. Quindi la stagione va avanti così. Ieri però si è vista una squadra che arriva dalla stessa parte, su questo non c'è dubbio. Sì. No. Intanto il Milan nelle prossime ore potrebbe avere ufficializzato il passaggio di Montella sulla panchina del Siviglia. C'è ancora qualche dettaglio da sistemare sulla buonuscita, sulla firma di un contratto fino al 2019, che soprattutto toglierebbe dal bilancio del Milan il contratto di Montella, rinnovato lo scorso giugno, poi è finita come sappiamo. Ringrazio Filippo Galli, ciao Filippo, grazie. Grazie a voi, ciao. Ciao, buon anno. A voi, buon anno. State scrivendo in tanti sulla crisi presunta o vera dell'Inter. Secondo me l'Inter è in crisi e io mi fa impazzire. Ci sono due atteggiamenti dei tifosi dell'Inter, Pier, che mi fanno impazzire in queste ore: i negazionisti, quelli che tanto era soltanto la Coppa Italia, e quelli che invece è tutto sbagliato ed è tutto da buttare via e l'Inter arriverà a metà classifica, se arriverà a metà classifica. E ce ne sono tanti. 800 24 0024, dopo il traffico c'è Fabrizio Biasin, parliamo un po' di Inter. Subito dopo l'intervallo la lotta continua. Tutti convocati. Mecal.com, l'eccellenza che funziona nelle macchine per la lavorazione dell'alluminio. Vi presenta convocati. Un momento che abbiamo perso un po' di fiducia, dove si fa le cose con meno coraggio, meno convinti di quelle che sono le nostre qualità. Poi quando ti capitano le situazioni non riesci a sfruttarle. Da un punto di vista proprio psicologico dobbiamo sterzare, dobbiamo renderci conto che dobbiamo fare qualcosa di più. Dolorosa, perché ci tenevamo a questa Coppa Italia, una sconfitta forse inaspettata. Era inevitabile che magari avevamo qualche difficoltà dopo un grandissimo inizio di campionato. Soffriamo dei contropiedi, poi magari siamo meno lucidi lì davanti, ma ripeto, il demerito è da parte di tutti. Allora, informazione di servizio, prima di Fabrizio Biasin c'è Luigi Pardo, c'è anche Antonello da Parma. Se volete telefonare per intervenire in diretta è 800 24 00 24 349 238 6666 e per gli sms e WhatsApp, se continuate a telefonare a questo numero semplicemente mi rendete impossibile la lettura dei WhatsApp e quindi fate voi, prendete nota. Ero io ecco. Fabrizio, ciao. Ciao, buon pomeriggio a voi. Sei stato grande profeta ieri pomeriggio, a scrivere che tanto oggi si sarebbe parlato più di chi perdeva che della squadra che avrebbe vinto lo scudetto. La profezia è molto facile. No, posso dire una cosa? Io sì. Ho letto il tweet di Biasin, in qualche modo è legato a quello che dice adesso Capuans. Cioè è assurdo pensare che questa partita potesse essere in qualche modo snobbata dall'Inter. Non scherziamo. Cioè, voglio dire, c'è qualcuno che pensa una cosa del genere? No, Assolutamente no. Abbiamo passato ieri mezz'ora a dire che rischiava molto più l'Inter perché aveva molto più da perdere, perdendo, cosa che credo puntualmente, no, Fabrizio, accada da oggi. Cioè, possiamo sdoganare la parola crisi o ci tiriamo dietro gli insulti e l'arrabbiatura dei tifosi dell'Inter? No, io credo che sia doveroso invece analizzare la situazione definendola per quello che è una situazione complicata, perché purtroppo c'è questo ritorno al passato. Tutti gli anni si ritorna a parlare di un Inter che quando arriva il momento della svolta inciampa. Questo non significa che però sia per forza una stagione identica alle passate. Il momento è difficile, bisogna trovare le contromosse. Semplicemente questa è una squadra da terzo, quarto, quinto posto, che se farà tutto per bene potrà arrivare al terzo posto, e se farà tutto malissimo arriverà al quinto. Sì, a me ha molto impressionato negativamente ieri Spalletti dopo la partita, quando ha parlato, io vado a memoria, cito le parole, di appiattimento delle reazioni e di aria negativa che si respira, come se ormai dovesse funzionare tutto così. Ora, conoscendo un pochino l'ambiente che circonda l'Inter e alle volte dentro l'Inter, ho come l'impressione che Spalletti conosca a memoria, anche se non c'era la storia delle ultime stagioni. Sì, assolutamente. Lui ha sempre parlato al plurale anche della passata stagione, quasi come fosse responsabilità sua. E devo dire che probabilmente lui l'ha studiata la situazione Inter. Cioè, quest'aria depressiva che non si riesce ad allontanare quando arrivano le prime difficoltà. Invece nei gruppi che funzionano, io mi auguro che l'Inter sia uno di questi gruppi, quando arriva la difficoltà devi trovare le forze per reagire. Ieri non è successa questa cosa, perché è stata una partita molto brutta. Mi immaginavo una partita brutta dove però una squadra che è tecnicamente più forte come l'Inter a un certo punto riuscisse a prevalere. Invece il Milan ha fatto valere la sua voglia di vincere. Pier, sì, la sdoganiamo la parola crisi, sì. Beh sì, insomma, tre sconfitte Fino a ieri pomeriggio era tabù, basta andare a riprendersi i messaggi che arrivavano. No, perché ipotizzavamo l'idea che l'Inter potesse essere all'inizio di una crisetta, poi mettetela voi. Sconfitta e crisi, ed è chiaro che molto, un pezzetto però da ieri sera un po' più importante di quanto di buono era stato fatto nei primi mesi si è sgonfiato in maniera abbastanza chiara, abbastanza precisa. Io non credo sinceramente che l'Inter aveva dato, secondo me aveva vinto tante partite, lo abbiamo ricordato spesso nella stagione, grazie al cuore, alla grinta, qualche volta anche un pizzico di fortuna, poi aveva dato a un certo punto una sensazione, almeno a me, diversa, di crescita vera. Penso a quei 70 minuti contro la Sampdoria, che se non sbaglio erano il 24 ottobre, penso alla partita di Cagliari, dove ha sofferto nella prima mezz'ora, la partita col Chievo, anche se era un Chievo è stata fortemente rimaneggiato. 16 dicembre, tra l'altro, nella partita nella quale l'Inter aveva comunque quei due squalificati che potevano in qualche modo pesare. Quindi c'era la sensazione che avesse fatto un passo in avanti. Adesso secondo me ha fatto un passo indietro, non così grande, non così enorme. Cioè, secondo me poi la distanza, la differenza fra Benevento Inter di che era fine settembre e Inter Milan di ieri sera non è così clamorosa, o fra Crotone Inter sempre all'inizio della stagione non è così grande, non è così clamorosa. Anche adesso le cose stanno girando un po' meno bene, sappiamo che la positività e la negatività sono dei venticelli che all'interno dello spogliatoio pesano, e quindi in questo senso interpreto le parole di Spalletti di ieri. In generale non credo che ci sia molto di compromesso, se no ovviamente la Coppa Italia, e sono d'accordo con Biasin, cioè la dimensione dell'Inter è quella. C'è chi dice che vale il sesto posto ma arriverà quinta. No, non vale il sesto posto. Però, come esempio, Inter-Lazio è uno spareggio, in questo momento sembra far meglio la Lazio, onestamente molto meglio la Lazio, sì. Però sembra veramente uno spareggio per il quarto posto. Ha detto sì, mettendo le mani avanti Fabrizio. Aspettate, mi fate fare Antonello da Parma, che ci aspetta da un po'. 800-24-00-24, Antonello. Pronto? Eccoci. Pronto? Dai. Mi sentite? Sì. Buongiorno, grazie per la convocazione. Volevo dire due cose. Praticamente sì, insomma, al di là, facendo la terra tutte le cose, praticamente dunque si parla di Pastore all'Inter, ma in casa Inter c'era un certo signore Jovetic che comunque saltava l'uomo, tirava da centrocampo, quando Icardi non la metteva dentro poteva andare bene, per un capriccio di Icardi che non lo voleva è stato venduto. Adesso se era costo zero, secondo me se poteva, cioè quando sei in crisi ci vogliono persone, giocatori di personalità che danno la pacca sulla spalla al giocatore di qualità e dire adesso c'è da correre, adesso c'è da correre. E cioè Jovetic ce l'aveva in casa, era un giocatore di quelli, sì. Secondo me si poteva, cioè non è che Jovetic risolveva i problemi, però era a costo zero, non doveva andare però Jovetic, Jovetic te lo cito, in un anno e mezzo di Inter ha fatto 6 gol, io non so Fabrizio, no infatti sì. Cioè, no, è un po' un falso storico il fatto che poi fosse un problema di Icardi, era un problema della società, cioè di un giocatore che non si era messo a disposizione del gruppo, e a quel punto diciamo che il valore tecnico passa in secondo piano rispetto a quello che deve essere l'interesse di tutto il gruppo. Pier? Sì, io... Beh, ragazzi, poi di, Pastore, diciamo, di Pastore vi prego non parliamo più, perché abbiamo capito che sul mercato a meno di miracoli non arriverà niente. Poi io vi dico anche come la penso. Una stagione straordinaria in Italia, quella con la Fiorentina, credo vada a memoria, forse 2012-2013, non mi ricordo, non so, però ha fatto una stagione clamorosa nella quale andò in doppia cifra e fece delle cose fantastiche a Firenze. All'Inter poteva rappresentare quello che dice l'ascoltatore, ma poteva rappresentare quella roba lì. L'ha fatto rarissimamente, con degli sprazzi appunto molto molto rari, francamente adesso riparlare di Jovetic mi sembra un po', sì, un po' poi è chiaro che qualsiasi giocatore perso dal punto di vista economico, qualsiasi giocatore che vendi a zero, cioè è ovvio che sono... Guarda, gli assenti cioè, sono sempre quelli che erano indispensabili. Esatto. Oh, leggo qualche messaggio che sta arrivando. 349-238-6666. Claudio da Pavia: dopo che incontrano la Juve tutte le squadre crollano. Tutte non so, il Napoli non mi sembra che sia crollato, però con la Juve c'ha pure perso, la Lazio nemmeno. C'è chi dice che se i tifosi dell'Inter sono disfattisti significa che il calcio non è più liquido ma è gassoso. Questo è Fabio da Milano. Poi Spalletti è stato obbligato a schierare i vari Joao Mario, Brozovic e Santon per motivi di spogliatoio e di mercato, e da lì in poi sono finiti gli equilibri. Insomma, non è che potesse andare avanti a giocare solo con 11 giocatori. Anzi, ecco, forse, scusami, riferito a questo messaggio, uno dei problemi è probabilmente è il logorio, nel senso che è chiaro che stiamo facendo una specie di processo indiziario, no? Non è che abbiamo grandi certezze. È una squadra che è uscita comunque bene, benino, insomma, giocando, tenendo botta a Torino contro la Juve, e che poi improvvisamente perde con l'Udinese, perde col Sassuolo e perde in Coppa Italia. Quindi è ovvio che stiamo facendo un processo indiziario. Tante volte ci scrivono: ma che cosa dicevate prima? Il calcio è questo, cioè, il calcio è una cosa che ti sorprende da un giorno all'altro, e quindi voglio dire, è difficile valutare. Detto questo, forse una delle spiegazioni è proprio legata al fatto che a un certo punto la spia della benzina si accende. Probabilmente è questo, ma anche che gli altri, magari ti studiano, perché io ieri da San Siro ho avuto l'impressione, sì, al di là anche di un paio di occasioni, che l'Inter sarebbe potuta rimanere lì fino a questa mattina, e certe trame, certe cose davanti al portiere l'uomo non ce lo metteva. E il problema è che sei partito molto bene con questo schema, con Candreva e Perisic belli larghi a dare palla ai Cardi, che ha sempre funzionato, e in questo momento non hai alternative a questo gioco. Perché? Perché sei fermo all'equivoco estivo del trequartista, non hai trovato un trequartista in grado di cambiare un po' il modo di giocare, ed è questa cosa che secondo me l'Inter dovrebbe risolvere. Non so se ce la farà a farlo a gennaio, dubito, con tutti i paletti che hai in questo momento. Sì, anche se io dico come la penso, e qui un anno fa parlavamo, attenzione, fair play finanziario, l'Inter non può fare le cose che ci vengono a raccontare, e prendevamo gli insulti. Allora, con la stessa faccia diciamo oggi che il fair play finanziario, di cui giustamente vengono raccontati adesso i vincoli e che mi porto avanti col lavoro, per l'Inter dura fino al 30 giugno del 2019, quindi mettetevi sereni perché andiamo avanti fino al 30 giugno del 2019. Oggi però tutte quelle cose che ci stanno raccontando con dovizia di particolari sono anche un grande alibi che copre molto, perché in testa c'è anche la scelta della società di fare dell'Inter un club autofinanziato. Secondo me è legittima come scelta, però come giustamente dice Spalletti da 2 settimane a questa parte, perché Spalletti aveva capito tutto prima della vigilia con l'Udinese e con il Pordenone, dovrebbero metterci la faccia e dirlo ai tifosi. Sì, sì. Anche perché questa cosa dell'autofinanziamento è assolutamente logica, però è il termine di un processo molto lungo. La Juventus è arrivata ad autofinanziarsi dopo aver immesso diverse 120 decine di milioni. Milioni di euro, te lo dico io. Esatto, esattamente, e è in questo momento entrata nel circolo virtuoso che le permette di stare a quel livello, però diciamo che farlo da zero diventa molto complicato. Farlo dopo aver buttato via 45 milioni per João Mario e 30 per Gabigol, capisco che possa essere ancora più sanguinoso. Ciao Fabrizio. Ciao, ciao, grazie a voi. Ciao, ciao, ciao, ciao. Alla Giovanni, prossima. No, siamo in ritardissimo sulla borsa. Facciamo la borsa, poi c'è Massimo da Udine. Mancherebbero due minuti, però mi hanno dato tre minuti di proroga, quindi posso chiudere alle 23:20. Manca 23:24, quindi vai con calma. Tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Allora, poi fra i disfattisti c'è anche chi dice che Spalletti è sopravvalutato, ha vinto solo in Russia, altri con giocatori peggiori hanno vinto di più, però oggi è il giorno anche di queste cose qui per i tifosi dell'Inter. Allora, saluto per Luigi Pardo girandogli un altro messaggio, visto che Pier tu sei un profondo studioso dello spallettese. Scrive un amico: Spalletti quando perde parla più veloce. Vabbè, è vero o no? Non lo so, però ci farò... Però posso dire invece una cosa, non è che è sopravvalutato Spalletti, cioè veramente, ecco, cerchiamo di essere, diciamo, pace col cervello. Sta facendo un gran lavoro, è chiaro che qualcosa si sta... Insomma, è una squadra che è andata probabilmente sopra i suoi limiti per tre mesi, adesso sta rifiatando e improvvisamente, insomma, arriva di problemi. Improvvisamente ed è costretta a guardarsi dietro, e proprio per questo Inter-Lazio di sabato ore 18 è una partita che vale 6 punti secondo me, non 3, per mille motivi. Ciao Piera, domani. Ciao. Massimo da Udine, 800 24 00 24. Massimo, eccomi qua, pronto, buongiorno, grazie. Vai, per lo spazio. Buongiorno a te. Allora, io vorrei, premesso che sono tifoso dell'Udinese, ma simpatizzo l'Inter, non fosse altro per Handanovic, che per me resta un mito e quasi una leggenda a Udine. Allora, io dico questo ai disfattisti dell'Inter. Come potete già criticare ora Spalletti, che ha dato un minimo di gioco all'Inter, ha dato una media punti all'Inter assolutamente all'altezza, e viene criticato per due partite perse il campionato e un'eliminazione in Coppa Italia, che in una partita non bellissima ci può stare. Secondo me è proprio il contrario. Spalletti è un allenatore, diciamo, che dà un valore aggiunto alla squadra, e lo ha dimostrato con i numeri. Vedremo da qua in avanti, diciamo, ma almeno l'Inter è passato dall'anonimato ad una posizione di classifica dignitosa. Sì, ma quello che aveva capito tutto era Spalletti, che secondo me sa benissimo che per tre mesi l'Inter è andata ben oltre le sue possibilità, e che prima o poi la crisi, la crisetta, o comunque il riallineamento su risultati più vicini alla realtà tecnica dell'Inter sarebbe arrivata, e l'ha chiesto con forza, l'ha chiesto due settimane fa, ha chiesto alla proprietà di precisare l'obiettivo, che se è il quarto posto è un conto, se come qualcuno un paio di settimane fa sognava, si illudeva, secondo me potesse essere la corsa scudetto con Juve e Napoli, ovviamente tutto questo avrebbe scaricato molta più pressione. L'Inter corre per il quarto posto con la Lazio, certamente con la Roma vedremo. Luigi da Milano, Luigi. Sì, ciao ragazzi. Ciao. Allora, penso che questo sia un campionato dove solo la Juve e il Napoli possono fare un po' la differenza, e le altre, secondo me, in base alla condizione di forma, fanno delle prestazioni più o meno egregie, no? O buone. Mi spiace continuare a vedere un Inter che non, al di là di non avere gioco, che già è migliorata rispetto agli anni precedenti, non riesce ad avere degli innesti, dei calciatori. Ma dove sono finiti anche quegli italiani che c'erano una volta nell'Inter degli anni 90, degli anni 80? Cioè, perché non si riescono a tirar fuori dei talenti che poi sono passati possono 30 veramente anni, far crescere questa squadra? Tu stai citando generazioni per cui sono passati 30 anni. L'ultima grande generazione di innesti dal vivaio nell'Inter, io ho la memoria, forse Zenga, Ferri, Bergomi. Stiamo parlando però degli anni 80. Poi dopo c'è arrivato qualcuno, però da questo punto di vista La storia dell'Inter negli ultimi anni è simile a quella di tanti altri grandi club. Anche il Milan, dopo un paio di stagioni straordinarie, sta facendo fatica negli ultimi anni a tirar fuori qualcosa di buono dal settore giovanile. Vediamo adesso con Cutrone. Abbiamo visto la parabola di Donnarumma, però non è facile, anche perché più che in passato il risultato serve, serve subito. Saluto intanto Nando Orsi, ciao Nando. Ciao, buongiorno a voi, ragazzi, auguri tutti. Auguri vabbè. Anche te. Vabbè. Augusto della provincia di Terni, dai Augusto. Eccomi, ciao, buonasera a tutti. Vai. Allora, un paio di considerazioni sul Milan, ovviamente, di cui sono tifoso da ragazzino. La prima è questa, ovviamente per mancanza di esperienza, ma la gestione Milan, prima si parte quest'estate con grandi progetti, due nuovi personaggi, Fassone e Mirabelli, di cui uno sconosciuto, fanno un investimento pauroso di soldi, dove Montella credo che abbia avuto le redini di questo investimento, dopodiché lo cacciano via e si decade piano piano nel nulla per poi arrivare forse a gennaio alla svendita, se non al fallimento. Bah, ma che razza di gestione è questa qua? Ho l'impressione che hai corso un po', Augusto, hai messo insieme un po' di cose. È la gestione di una squadra che ripartiva da zero dopo 5 anni in cui di fatto era stato fatto mercato e per metà una sola estate, l'estate di Romagnoli, Bacca e Bertolacci. Il Milan scontava anche quello, 4 anni e mezzo di completo immobilismo sul mercato. E poi gli errori, Nando, si fanno, perché quando tu cambi 11 giocatori gli errori si fanno, ma credo che il bilancio vada fatto a fine anno. Ma sicuramente il bilancio va fatto a fine anno, è indubbio che ci si aspettava di più, molto di più. Anch'io pensavo che fosse una rosa molto più importante. Secondo me, io l'ho detto spesso, questa è una rosa che al di là della qualità tecnica, che ci può essere anche, secondo me manca un po' di personalità, cioè nei momenti difficili questa è una squadra che un po' si scioglie, al contrario di ieri, che poi invece dopo ho visto una squadra molto molto grintosa, molto dinamica. Non so se può essere la rinascita, perché poi dopo in campionato il campionato è sempre un'altra cosa, però da ieri è un piccolo mattoncino che può far sperare un po' di voglia in più e di autostima, che sicuramente non può far male, ecco, anzi deve far benissimo, però le considerazioni su certi giocatori bisogna farle ugualmente. Sì, mi ha molto colpito, te lo faccio sentire, quello che ha detto ieri Amsic a Sky. Purtroppo non siamo in Argentina, dove c'è clausura e apertura e non ci danno la coppa dopo campione d'inverno, conta solo quello che arriva fino al maggio. In 3 anni la squadra è cambiata pochissimo, il modo di giocare non è cambiato e questo ci fa crescere ogni settimana, ogni mese. È arrivato il momento di prendere frutti. Mi ha molto colpito, Nando, perché fra domani sera, che gioca proprio il Napoli a Crotone, e sabato si assegna il titolo d'inverno, che non conta nulla, anche se per la statistica nell'era dei tre punti 17 volte su 23 chi è stato campione d'inverno è stato anche campione a maggio. E secondo me ha maggior ragione quest'anno, visto il finale di calendario che ha la Juve, se il Napoli sta lì fino alla fine ha le possibilità di farlo. Chi sta meglio in questo momento tra Juve e Napoli? Ma il Napoli è in crescita, è ritornato ad essere quello di prima. La Juve sta sempre bene, lo sai perché? Perché la Juve ha i cambi, il Napoli un po' meno. Se il Napoli non ritrova la condizione fisica, i cambi ne ha pochi. La Juventus può permettersi il lusso di avere Dybala in panchina per 3 partite e questo la dice lunga sulla differenza di organico. Quindi il Napoli sta bene perché ha ricominciato. La Juve non è stata mai male, secondo me. La Juve non sta mai male perché se sta male un periodo cambia un paio di giocatori e rinasce. Tra l'altro ha un allenatore che secondo me è straordinario, è camaleontico nelle sue scelte, nella sua gestione eccezionale. Sì, tutti gli anni inventa qualcosa. Inventa qualcosa, esatto. Però adesso deve rimettere Dybala dentro un modulo che non è più fatto per lui. Ma io penso che lui ha detto una cosa importante e fondamentale, che poi dopo è poi il DNA della Juventus: mando in campo le squadre che mi fanno vincere. E in questo senso Dybala può far panchina. Anche se io darei la maglia Dybala agli altri 10, sì. Ma fortunatamente per la Juve l'allenatore non sono io, ma è Allegri. E Allegri, secondo me, in questi 3-4 anni sta gestendo benissimo i grandi campioni. Dybala deve mettersi al passo, perché Mandzukic faceva il centravanti e adesso si è messo a sacrificare a fare l'esterno di sinistra. E quindi il sacrificio è fondamentale nelle squadre di Allegri. Sì, però non mi sorprende che dopo tre panchine di fila, come pare sabato a Verona, Dybala torni. Cioè sì, diventa difficile, io capisco, sei un grande allenatore, camaleontico, sei protetto dalla società, perché la Juventus ti protegge in tutte le scelte, anche quelle meno facili da comprendere, poi però ci sono valori ed equilibri che è difficile andare a toccare troppo a lungo. Sì, sì, è vero, è possibile. Però io non mi meraviglierei neanche del contrario, che facesse la quarta di seguito. E quindi non lo so, io non sono tanto convinto che Dybala giochi, anche perché questo 4-3-3, lì a sinistra devi avere uno che torna, lì a destra pure perché Allegri vuole un po' di sacrificio, e quindi o Dybala si comincia a pensare di fare soltanto, di fare anche la fase di non possesso, o se no Allegri lo mette là, e è ovvio che stiamo parlando di, secondo me, l'Italia di un fuoriclasse. Però contano anche i risultati, e quando contano i risultati, sì, poi si gioca in 11, esatto, e esatto. Quindi più di 11 non ne può schierare Allegri. Si gioca in 11 e poi con dei ruoli come racconta definiti. Spesso Spalletti, no? Quando racconta che dà il foglietto a tutti dicendo scrivete voi la formazione ideale, l'unico tratto comune che gli restituiscono è che si gioca in 11. Esatto, quello sì, quello è vero. E di più non si può. Ti rubo altri 30 secondi. Vai. D'accordo anche tu che la Lazio arrivi nettamente meglio dell'Inter a San Siro sabato, tanto da far immaginare che per l'Inter sia ben più di uno spareggio? Beh, è una partita importante. O è un'illusione ottica? Perché no, abbiamo no, la negli Lazio occhi... ci arriva bene. No, no, la Lazio ci arriva benissimo. L'Inter ci arriva non facendo più risultato. Cosa invece che gli succedeva prima? Giocando allo stesso modo di adesso. Secondo me l'Inter sta giocando allo stesso modo di prima, solo che adesso diventa più difficile fare risultati e far gol. Perché? Perché quando hai soltanto un giocatore che fa gol, quando si inceppa per 4-5 settimane, diventa un problema. E il problema dell'Inter è che secondo me si sono inceppati i due esterni e l'attaccante, che sono il punto di riferimento, che sono il fulcro del gioco di Spalletti. Perché lì il trequartista Spalletti ancora lo sta cercando, però quei tre hanno sempre dato le massime garanzie. Quando vengono a mancare tutti e tre insieme, l'Inter ha problemi. Sì, anche perché non ha alternative. Grazie Nando. Ciao ragazzi. Grazie Nando Orsi, alla prossima. Traffico, torniamo subito. Bene, allora siamo tutti convocati. Tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Motori elettrici simotopgroup.com. La qualità che ha conquistato l'Europa. Vi presenta... convocati. Da un punto di vista fisico stanno bene, da un punto di vista qualitativo hanno le loro qualità. È chiaro che se però poi aspetti che qualcuno risolva la tua causa, e allora poi diventa più difficile. Le nostre cose bisogna risolvercele da soli. Se tutti aspettano che venga qualcuno a farle per te, è chiaro che sei nei guai. Questo Spalletti ancora ieri a proposito del mercato: non arriveranno aiuti dall'esterno, ovvero dal mercato, questo è il messaggio che lancia, poi vedremo perché le vie della finestra di gennaio sono infinite, però ad oggi questa è la sensazione. C'è chi contesta le critiche a Dybala che ha fatto 15 gol a metà campionato, è vero, i numeri lo dicono, ma non siamo noi che contestiamo Dybala, è Allegri che da tre partite lo mette in panchina in campionato. E questo è un segnale evidente della necessità di Dybala di fare qualcosa di diverso. Gino da Barletta, Gino. Ciao. Vai. Gino. Ciao, caro. Senti, è una trasmissione che seguo spesso e volentieri. Sì. È una trasmissione fatta da gente, diciamo, che ama il calcio. Grazie. Però, oltre ad amare il calcio, bisogna anche capirne. E siccome il calcio è una cosa seria, io dico sempre che molti parlano senza mai aver toccato una palla, diciamo un pallone. Cos'è che non ti è piaciuto che abbiamo detto? Dai. No, non è che non mi è piaciuto, è che se si mette in discussione un giocatore come Dybala, se si mette anche a parlarne così, pur parlare, significa che uno a pallone non ha mai giocato. Ho capito, Gino, ma ti ripeto, così, insomma, ripeto quello che ho detto un minuto fa. Cioè, non siamo noi a mettere in discussione Dybala, non è Nando Orsi, è Allegri che da 3 settimane lo mette in panchina. È la Juve che attraverso i suoi dirigenti ha detto le cose che abbiamo sentito su Dybala, sulla necessità che cresca, che faccia vita d'atleta. È la Juve che ha cambiato modulo. Poi sicuramente Dybala sarà capace di adeguarsi a tutto questo, e Dybala è un potenziale fuori classe. Però non siamo noi che contestiamo Dybala. Andrea D'Amico, ciao. Ciao, buona giornata. Non siamo noi che contestiamo Dybala. Facciamo ragionamenti su 3 panchine consecutive. Se tu fossi il procuratore di Dybala, 2 domande te le faresti anche tu, no? Sul momento del giocatore. Ma, in maniera privata, sì. Perché comunque è un ragazzo giovane, un ragazzo che ha dimostrato subito un grandissimo valore, una grandissima personalità. Cioè, non dimentichiamo che la maglietta della Juventus è una maglietta pesante, molto pesante. Lui è arrivato e ha dimostrato di fare grandissime cose. E ora loro sanno come fare alla Juventus, sanno che valore hanno in mano, sia a livello umano, sia a livello sportivo e patrimoniale, per cui fanno di tutto per preservarlo. Di sicuro non c'è contrapposizione tra lui, il club e l'allenatore, perché tutti vogliono il bene di questo ragazzo, e non lo dico in maniera ecumenica, lo dico perché comunque fare gli interessi del ragazzo vuol dire fare gli interessi del club, dei tifosi, dei successi sportivi e del valore patrimoniale di questo grande talento. Quindi se ci sono dei problemi, come ha detto Nedved, cercheranno di risolverli. È chiaro che è un percorso di crescita dove all'interno di un grande gruppo tutti devono trovare il giusto collocamento e il giusto momento. Quindi tra l'altro non siamo noi che critichiamo, noi analizziamo cosa sta succedendo intorno a Dybala in questo momento. Do una notizia veloce: fortunatamente infortunio meno grave del temuto per Andrea Belotti. Questa mattina i primi esami, trauma distorsivo al ginocchio destro ma senza interessamento dei legamenti, soprattutto del legamento crociato. Salta la partita col Genoa, è a rischio per il derby di settimana prossima, ma ieri per qualche ora si era temuto peggio e invece siamo ben contenti di dire che dovrebbe essere andata bene. Voglio chiedere ad Andrea D'Amico questa cosa sul Napoli. Io sono molto imbarazzato a parlare del mercato di gennaio del Napoli. Mi sto convincendo che il Napoli deve restare così com'è, anche se so che manca Goulam, manca Milik, servirebbe una rosa più profonda, servirebbe un vice Mertens, ma tanto se poi Sarri non li fa giocare. Beh, è chiaro che comunque le alternative, lo dice il nome stesso, servono nel momento stesso in cui dovesse servire qualcos'altro. È chiaro che se noi andiamo a vedere anche nelle squadre più vincenti, cambiano non moltissimo quelli che sono gli 11 titolari, però è chiaro che toccando a ferro può succedere qualunque cosa, e quindi devi avere delle alternative. Adesso l'infortunio di Goulam, di Milik un'altra volta, comunque impone delle riflessioni. Probabilmente se potranno farlo lo faranno, per non trovarsi la coperta corta. È chiaro che dopo Stadi è stato un maestro bravissimo ad adattarsi ad una piazza come Napoli e subito trovarsi in questa classifica da vertigini, insomma, per cui è andata male a Champions, però insomma probabilmente speriamo che per i tifosi partenopei possa andare meglio adesso nel campionato. Sì, e poi bisogna fidarsi a un certo punto della sua valutazione. Uno che fa 96 punti in un anno solare, evidentemente è in mano la ricetta. Che cosa possiamo raccontargli noi? Ti giro un messaggio di un amico: visto che si parla di trequartisti, Giovinco all'Inter, come lo vedresti? Male, perché comunque perché non ci viene. Perché comunque Giovinco, reduce da questa vittoria nel campionato nordamericano, si trova benissimo lì. Male dal suo punto di vista, ovvio che rispondo con una battuta. E Giovinco sarebbe bene in qualsiasi grande squadra europea e italiana. Ha fatto una scelta di vita e una scelta sportiva 3 anni fa ed è molto felice di quello che ha fatto. È chiaro che sarebbe bene nell'Inter, lo vedrei bene nel Milan, lo vedrei bene in tante realtà, però adesso sta bene dove sta. È inutile adesso andare indietro con i sei mai, forse. Va bene anche in nazionale, sì, per quello. Sì. Ma magari ci torna al prossimo giro. Quando ci diranno chi è il prossimo CT? Sai che io andando in giro per il mondo sento un po' delle cose strane, mi tocco sempre, però dicono ma dai, tanto comunque i mondiali ci andate, ma Io rispondo come Infantino, presidente della FIFA: bisogna qualificarsi in campo, tutto il resto sono chiacchiere. Oppure sono cose in determinati momenti storici, perché per carità la Danimarca nel 92 andò all'Europeo e poi lo vinse, ma lì c'era dietro una guerra, c'era dietro una guerra civile, insomma stiamo parlando di questioni di macropolitica e non di politica sportiva. Scusa, ti interrompo, se tu rifletti quello che è avvenuto adesso con la Russia per le prossime Olimpiadi, ed è uno scandalo che non è scoppiato anni prima, non lo so, è equivalente a una guerra, ovviamente una guerra sportiva, perché non si era mai visto una nazione così importante che dovesse andare alle Olimpiadi senza bandiera, addirittura correndo il rischio di rimanere. No, la Russia è rimasta a casa, sì. Ed è successo 2 mesi prima, non 2 anni prima. Vabbè, io devo vederla, la Spagna che resta fuori dai campionati del mondo. Però è in questo momento un'opzione aperta, poi è tutto da capire se ripescano l'Italia, il Cile o chissà, insomma, chi. Sono dei rumors dei corridoi. Sì, che noi raccogliamo e ci speriamo anche un po', però restiamo che poi la qualificazione avevamo tutto per prendercela in campo contro la Svezia. Chiedo ancora 2 minuti ad Andrea D'Amico. Nicola dalla provincia di Napoli. Nicola. Salve, buongiorno, buon anno. Grazie per farci questa azienda. Una domanda. No, aspetta, Nicola, perché si sente malissimo. Proviamo a riagganciarti. Adriano da Milano. Adriano. Buonasera. Intanto vai, volevo Adriano. Esprimere apprezzamento per la puntualità delle sue osservazioni, sia su questa emittente che quando è ospite di Tele Lombardia. Grazie. Mi intervenivo sull'osservazione di Nando Orsi relativa alla calamenticità di Allegri. Sì. E proprio per questo intendevo esprimere invece dei dubbi sulla rigidità invece di Sarri e Spalletti. Mi pare che rispetto ad Allegri, che quando nota una flessione nel rendimento della squadra, premetto che non sono juventino, immediatamente adotta degli accorgimenti, prima di tutto di natura tattica, non mi pare che altrettanto facciano Sarri e Spalletti, che invece vanno a cercare valutazioni così sul rendimento dei giocatori, mentali. Ecco, probabilmente dovrebbero loro per primi intervenire su questi aspetti, esattamente come fa Allegri. Mettersi in discussione. Andrea D'Amico. Mi veniva un po' da sorridere, perché comunque il materiale e la quantità di ottimo materiale che ha a disposizione è Allegri è sicuramente diversa dagli altri due allenatori. La Juventus, se chiudiamo gli occhi e scorriamo chi non gioca durante qualsiasi partita, ha un'altra squadra di titolari, e quindi è chiaro che il compito dell'allenatore è sì di ottimizzare le scelte che va a fare di partita in partita, ma anche quella di tenere motivato l'altra squadra che gioca, e quindi deve tenere tutti psicologicamente sul pezzo, per così dire. Cosa che in questo momento nell'Inter, nel Napoli hanno, cioè devono ottimizzare quelli che vanno in campo, perché le alternative, le abbiamo visto anche ieri sera, sono poco cosa rispetto ai titolari. Sì, ma tu ci credi al fatto che solo per il fair play finanziario l'Inter ad esempio anche sul mercato di gennaio si fermeranno? Secondo me è un alibi che copre anche tante altre cose. Beh, comunque sai, hanno speso molto e probabilmente non sono contento di tante cose che hanno acquistato spendendo molto, perché insomma sì, ieri qualcosina abbiamo visto. A questo punto sai, perché noi enfatizziamo sempre tanti soldi spesi uguale grande qualità, ma non è sempre così, perché se andiamo a vedere lo stesso D'Albert, Cancelo e tanti altri giocatori che sono stati comprati, insomma non stanno rispondendo secondo quelle che erano le aspettative. Detto questo, mi auguro che qualcuno prima o dopo cerchi di cambiare o di abolire questo fair play finanziario che impedisce a chi ha i soldi di poterli spendere. Sì, sempre ammesso che ci sia solo questo. Ne parlavamo prima, è anche legittimo che una proprietà chieda per il suo club l'autofinanziamento, magari con una certa gradualità. Non si può passare da spendere 80 milioni male per João Mario e Gabigol e poi far fatica a trovare un difensore centrale di riserva. Grazie ad Andrea D'Amico. Buona giornata e buon anno a tutti. Grazie ad Andrea D'Amico, buon anno anche a te. Allora, noi ci fermiamo qui. Oggi è stata una grande giornata per lo sci azzurro, domani ne parleremo. Dominique Paris ha vinto la discesa libera maschile di Bormio sulla pista Stelvio, è stata una gara meravigliosa. Domani ne parliamo. Io ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Andrea Roccabelli a regia. Domani l'appuntamento dopo il GR delle 14. Ciao. Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti.